E bentornati anche questa settimana ad una nuova puntata di Rock Legends, a microfono come sempre il vostro Jean-Luc. Altra settimana con interviste, stavolta la band viene da Verona e dintorni. Ragazzi, a voi la parola per le presentazioni. Ciao Jean-Luc, siamo gli Shelter of Leech da Verona, come hai detto. Io sono il Dade, alla voce, alla mia destra. Ciao Getto. E di qua il Sam, ciao a tutti. Con gli Shelter of Leech ci immergeremo in un'atmosfera decisamente heavy, iniziando con una prima parte dedicata ai grandi dell'hard and heavy degli anni 70. La prima canzone era Sabbath Bloody Sabbath, dall'omonimo disco del 1973 del leggendario combo inglese. Un sound che a distanza di anni sembra davvero essere ancora molto attuale. Che ne pensate? Ci stavo giusto pensando. Io l'ho visto. L'ho visto, non li ho visti, ma l'ho visto dal vivo. Ozzy. Ozzy, sì. Devo dire che è rimasto il segno, quindi per me è grande, mi è piaciuta la scelta, direi. La storia degli Shelter of Leech so essere lunga e costellata da mutamenti di organico. Quando si forma la band e perché avete scelto questo nome? Allora, la band si forma 2002, 2003, 2004, 2-3 anni di preparativi. Siamo cambiati molto, sono rimasto solo io dell'inizio della storia. Il nome, ma come dico di solito, tabellone sul muro, vari nomi, a votazione è saltato fuori questo, e poi ci abbiamo creato dietro la storia delle sanguisughe, della sala prove del sangue, però l'idea è questa. Andiamo avanti con gli Hawking, la formazione inglese con 40 anni di storia alle spalle, dal disco live Space Ritual del 1973 con Master of the Universe. Formazione leggendaria che si dice abbia anticipato molti dei generi a venire, come ad esempio lo stoner e l'alternative rock. Voi cosa ne pensate? Ah beh, Master of the Universe è un pezzo fantastico, soprattutto considerando l'epoca in cui è stato fatto. In certi punti mi sembrava di sentire Queen of the Stone Age. Io quindi... ho fatto un viaggione. Quindi veramente fantastici secondo me. Vostre esibizioni, come sono andate e quali impressioni che avete raccolto dal pubblico? Ah, è andato benissimo, tornare sulla scena dopo tanti anni è stata veramente un'emozione, l'accoglienza è stata buona e... Due, sembra che siamo fuori da 73. Da troppo. E adesso ci aspettano altre quattro date imminenti, il 4 marzo ad Alcenago, l'11 marzo... dove siamo, Zeto, l'11? Faenza? Rara? Cioè, esatto. più o meno. Beh, comunque lo potrete vedere sul nostro MySpace, non vediamo l'ora, siamo veramente caldi. Concludiamo dunque questa prima parte con i Blue Oyster Cult, formazione americana ancora in attività e unica nel suo genere ad avere tre chitarristi. La riascoltiamo dal primo omonimo disco con Stairway to the Stars. ragazzene.